Sono le 7:30 minuti primi. Questa è Rock FM, la colazione servita in diretta. Pane, burro, rock and roll e via! Ma pensavo fosse 2001, invece è l'intro di 8:30. Vabbè. Venghino se rivenghino! Tanto vado manieristico, le so tutte le intro di Pane, burro, rock and roll. Ciao dall'Ariele, da Fricantoni, da Spadino, da Mister Trombetta. Un abbraccio caloroso a Franz, che scrive al 335-100-7777. Caro Ariele, è da un mese che ci sto pensando, ve lo devo dire. Il 2008 non è l'anno della svolta, ma va bene lo stesso, basta che sia rock. Otite perforante, un cliente scappato in Brasile, un altro che non paga. Ieri il mio cane si è messo sotto la mia auto, fanculo. Franz, ti capiamo, anche per noi è così. È una questione karmatica. Eravamo dell'idea che se teniamo duro e continuiamo a dirlo, secondo noi svolta il 2008. Quindi Franz, non buttarti giù così subito, siamo solo a febbraio, agli inizi di febbraio. Aspettiamo di arrivare a qualche altra pagina del calendario di Pane, burro e rock and roll. Il 2008 sarà l'anno della svolta, fidati. Lo sa anche la mia macchina. Sveglia Spadino, sveglia! We will rock you! Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Viva Rocco, 7:33. Saluti a Marchi da Cinisello, a Isa, che direi ne ha bisogno stamattina. Sto andando a lavorare, Piera, Ro, sono ancora ubriaca da 3 ore fa, quando sono andata a letto. Chiedo supporto da Trombetta. Sposo subito l'appello di questo SMS, macchine aziendali per i DJ di Rock FM. Bravo Andrea, così si fa. Ariel, ma se ti manda un bacio una bella ragazza, ti passa un po' la carogna, Ale? Beh, dipende, con lingua o senza lingua? A cucchiaio o alla francese? Beh, bisogna analizzare la situazione e poi si vede. Dov'è Frick? Lo paghiamo, perché non viene? Ah, sta facendo arrotonda. Ah, ho capito. Cosa fa stamattina? Il babysitter? Bene. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens. Still her boyfriend. Buongiorno signor Frick. Buongiorno dottore. Le lascio Sofia, mi raccomando. Ma stia tranquillo, sono un babysitter diplomato. The flashy girl from Flushing, the nanny named Fran. Allora Sofia, è ora di fare scienze. Non ho voglia di parlare di fiumi. E di cosa vuoi parlare allora? Guarda che i fiumi, Sofia, sono importanti da conoscere. Bisogna saperli, se no dopo dove vai? Al largo. Io non ho voglia di andare al largo, io voglio espandermi. Scusa, trottolina? Sì, Fripp, io voglio espandermi. Sai cosa dice la teoria dell'universo in espansione? Sì, Sofia, sarebbe Fripp. Comunque, guarda, è meglio parlare di fiumi. Che se anche si espande l'universo, i fiumi comunque rimangono uguali e sono importanti. Non è vero, Fripp. E poi non c'entra. Si parla di galassie che si allontanano da noi con una velocità che aumenta con l'aumentare della distanza. Sai cosa vuol dire? Cosa? Che se io inizio ad allontanarmi piano piano da te con passo felpato, io più mi allontano, più la mia velocità aumenta, più aumenta, io più sono libera di scappare. Dove vai, Sofia? Torna subito qua. E se esci, maledizione, chiudi bene la porta che si spreca tutto il riscaldamento. Ma Sofia, dove vai? Sta bambina mi fa impazzire. Sofia, torna subito qui. Pare burro rockerò, pare burro rockerò. Mazza che figata sto programma, raga. Che è stato, quel che è fatto, te lo dice l'almanacco, non c'è niente che gli sfugga, l'almanacco la sa tutta. Non c'è la rima, maestro. Ho sbagliato la rima. Ho sbagliato la rima, mi scusi. No, tutta, beh, licenza poetica. Tutta, tutta. No, però era bello, era bellissimo, eh. Caro Fripp, no, non faccia così. Mannaggia a me che gliel'ho detto. 7 febbraio. avremmo i compleanni, seconda parte dell'almanacco. Evviva, volevo aprire in bellezza. No, era bellissima, era bellissima. Poeticamente. C'era tutta, fatto tutta probabilmente, era una rima ABBA. Sì, esatto, sì. E senta qua la chiusa, Ti prego. Ogni vita ha le sue pene, sì. E l'almanacco ne conviene. Certo. Or per chiudere quest'ode, con l'almanacco qui si gode. 7 febbraio nacque nel 1812. Complimenti, maestro. Grazie. Mi permetta di stringerle la mano. Lo ringrazio. È un vero fenomeno. Charles Dickens, scrittore inglese che non ha mai scritto un poema così sull'almanacco. È vero. Mai poesia. Lei si ricorda Oliver Twist? Sì, David Copperfield. Certo, ma non era il mago americano David Copperfield? Sì, infatti, dice, direi c'è che un misunderstanding. Dickens lo ha previsto con la sua chiaroveggenza da scrittore. Tempi difficili, hard times. Sai, sì, che questo Charles Dickens, sì, non è che, per carità, grande scrittore, non è che portasse mani, male, però parla sempre di grossi problemi, questioni. Si sta ravanando la fatta. No, perché non si sa mai, insomma, sa quando era un po' così. No, quando l'argomento principale diventa la sfiga, nel senso buono, è un po' faticoso. Comunque, lei ha mai parlato della sfiga nella sua vita? Ma naturalmente no. No, mai scritto aforismi sulla sfiga. Mai scritto. Abbiamo fatto gli auguri di compleanno al buon Roversi qualche giorno fa. Oggi è il compleanno della moglie, Susie Bledi, conduttrice televisiva. Nasceva nel 52, lo stesso giorno e lo stesso anno di Vasco Rossi. Complimenti. Cantautore italiano, sì, c'è scritto. Ma perché? Vero. No, è giusto, rock, cantautore rock, ecco. Rock italiano. E mentre un anno dopo, nel 53, anticipando di poco Fricantoni, Francesco Salvi veniva al mondo, nasceva, quindi un augurio a lui e alla mamma. Francesco Salvi, attore, comico, cantante italiano, quella macchina la devi mettere qua. Esattamente lui. Posso chiudere, eh? Sì. Ti sorprende di piatto, variopinto e rarefatto, a me piace anche bislacco, questo sì che è l'almanacco. Complimenti. Ma è sua, maestro, sto veramente? Solo leggendo, l'ha scritta lei. Grazie, però lei l'ha valorizzata. Grazie. Iggy Pop, che gli hanno detto canta la bassa questa, Cry for Love. Benvenuti alla nostra colazione in diretta, pane, burro, rock and roll. Un saluto a Manu che c'ha la carogna, beh, dice che non abbiamo fatto gli auguri di compleanno a Alice Cooper. Io sono quasi certo che invece li avevamo fatti. E un Matteo da Firenze dice: finalmente mi sono deciso a riprendere la chitarra in mano. Cosa ne pensate dei corsi in DVD per fare i chitarristi? Perché non lo chiediamo al nostro chitarrista di riferimento? Redazione, rintracciatemi Matte, chitarrista di Firenze. Not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah I'm easy. Give the word, I play your game as though that's how it ought to be. Because I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. When you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Yes, I'm easy. Wait. Kid Carradine, 7:48 minuti primi. Il nostro chitarrista di riferimento, dai che mi fa tornare il buon umore. Matte, 13 anni, ha una band formata da qualche settimana. Avranno fatto 4 prove in tutto. Si chiamano The Anger. Il nome della band l'hanno scelto, tra l'altro, chiedendo prima ai radioascoltatori di Rock FM un consiglio e poi scegliendo solo loro che era meglio. In queste 4 prove hanno già cambiato 2 batteristi, ma lui è lì, è il nostro leader della band. Ciao Matte. Ciao Aurelio, come stai? Hai cambiato un altro batterista nel frattempo? No, c'è da ora, c'è questo nuovo, ce l'abbiamo ancora. Lo tenete quello nuovo. Allora Matte, in realtà prima di occuparci dei The Anger, un amico scrive via SMS come cosa ne pensiamo dei DVD per imparare a suonare la chitarra. Ma non lo so, dipende, non lo so. Tu come hai fatto? Io ho cominciato da solo un coso e poi ho preso con un fascicolo e poi ho preso il maestro. Classico fascicolo, anch'io avevo un fascicolo. Con dentro delle canzoni particolari? No, con dentro gli inizi, gli accordi. Esatto. Cioè proprio si insegnava le prime cose, le note, esatto, così. Esatto. E poi? Ho preso il maestro e mi segna. Qualche volta vado su YouTube, cerco qualche video per vedere. The New Generation, pane, burro, rock and roll sulla nuova generazione. Su YouTube i giovani imparano a suonare la chitarra. Bravo, Matte. Scusa, riesci a dare un po' di freschezza a questa trasmissione fatta da vecchi bacucchi? Vecchi. Ecco. Dimmi. Insomma, ti volevo dire, la bassista è una femmina. Ma scusa, perdonami, ci siamo già sentiti almeno 4-5 volte e non ci hai mai detto che la bassista è una sbarba. Mi è passato di mente. Guarda che acchiappa la sbarba al basso, eh. Io ho sempre avuto un debole per le bassiste, ti dico la verità. Sì. Ma com'è anche. Beh, ascolta, i tuoi. Decidiamo una cosa, i tuoi colleghi la sentono sta trasmissione o no? No, non lo so perché. Cioè, possiamo sentirci liberi di dire quello che vogliamo o ti sfasciamo la band se diciamo delle cose? No, non lo so. Non lo so, vabbè. Dipende, vabbè, com'è? Io, quelli com'è? Della mia band non mi stanno ascoltando. Ah, perché, ok. Però c'è altra gente, forse mi sta ascoltando. Mannaggia. Però, perché poi ti mettiamo. Guarda. Non so se ti sei mai accorto, ma le tue telefonate poi le mettiamo sul nostro MySpace. Sì, lo so, l'ho già sentito. Quindi oggi ti risentirai, anzi, risalutati. Ciao. Ciao. Ciao Matte. Senti un po', com'è sta sbarba? È carino. È carina. È bellina pure, fantastica. È bellina. C'ha un po' strana, però è bellina. No, che senso strana, ma? Non lo so. L'altro giorno è venuta, aveva un collare porcato al collo. Eccola là. Oh, tra l'altro, diciamocelo, è meglio se non ve la fate, eh? Dopo è un casino. Io te l'ho già detto, guarda, la band è peggio di avere una fidanzata. Quindi se ci mischi la roba è un casino, te lo dico come consiglio. Poi, se è, lasciamola andare. Però, ci siamo capiti. No, sì, ma io, sì. Matte, lo vedo che è veramente preparato sull'argomento. L'altro giorno mi chiedevano come fare per accordare una batteria, non ho saputo rispondere. Non lo so nemmeno io. Esatto, chiedetelo ai batteristi. Però noi siamo chitarristi. Il batterista mi ha detto che la batteria ci sono. Quando la metti, devi mettere, come si chiama, la pelle, no? Eh? Apri il tamburo, metti dentro, poi chiudi, poi non lo so come lo tira. Devi girare quelle robe lì. Insomma, anche il terrettino ci sarà. Esatto. Mentre un altro era disperato che non sapeva come accordare la chitarra, perché l'accordava col diapason. Tu fai col diapason o con l'accordatore? No, io fo con l'accordatore. Accordatore tutta la vita. Oppure qualche volta con telefono, ma di solito accordatore. Cos'è sta storia del telefono? Se metti il telefono fai il la. Il segnale di libero, quello lì, è un la preciso. Sì, ma di solito lo fa con l'accordatore. È che è un po' meglio, tra l'altro. Anche io col diapason non ce l'ho mai, devo dire la verità. L'accordo un po' così a orecchio, ma. Dovremmo fare delle lezioni per accordare la chitarra, però, eh. È che al telefono è un po' dura. Fate già le lezioni per gli strumenti a voce. So. Guarda, tra l'altro stiamo preparando. Stiamo preparando delle sorprese. Ma occupiamoci delle prove, le avete fatte? Venerdì le avete fatte a casa tua? Fatte venerdì. Aspetta, fammi indovinare, avete scritto 3 pezzi nuovi. Ah, uno. E ho imparato a suonare Sweet Home Alabama. No! Dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Perché forse te l'ha detto, perché io conosco molto bene Zorro come amico di fiducia. In che senso? Zorro? Ma quale? Il nostro vero? È il vostro Zorro, che lo conosco io. Sweet Home Alabama, che schifo. Ah, ho capito. Sì. Scusa, mi ero persa, stavo immaginando se Zorro che è mai stato fatta a Sweet Home Alabama, c'era anche io lì. Sì, sì, sì, no, ma è sempre ambientato a Sweet Home Alabama, anche la prossima che andrà in onda domani. Invece le Zeppelin con Cazzute li perdi tutti o te li senti qualche volta? No, me li sento. Oh, oggi facciamo una Stairway to Heaven, Matte, da brivido. Poi la faccio risentire nelle prossime puntate, al massimo su MySpace le trovi. L'altro giorno ho sentito Stairway to Heaven con l'orchestra. Fatta dove? Su YouTube? Sì, sempre su YouTube, stavo cercando lì con l'orchestra, non è che sarebbe un granché, però. E invece ieri, e lo riproporremo nelle prossime puntate, perché Matte la seconda ora non la sente perché è a scuola, abbiamo fatto sentire questo Jerry Phillips che suona scorreggiando con le mani, cioè facendo. Come si dice? Quella di CDC, come si chiama? Esatto, abbiamo messo anche quello su MySpace, fatelo guardare. Ho belle visto. Va, grande Matte. Senti, quando sono le prossime prove? Lo sai, proprio sempre il fine settimana. Ok. Comunque lunedì ho sentito la seconda ora. Ah, pure, non sei andato a scuola? No, perché c'avevo il dentista, allora stavo tutti i giorni. Se no, peccato che ci sentono i tuoi che ti accompagnano a scuola, se no potresti portare le cuffie a scuola. Ma non ci siamo detti niente. Matte, alla prochaine, salutami la banda e soprattutto la sbarba. E che c'ha 13 anni anche lei? Sono tutti 16 anni. Allora lascio stare perché è veramente troppo poco per me. Ciao. Ciao. Buona giornata. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira Grande Matte e The Anger faranno strada ai ragazzi, e noi di Pane Burro e Rock and Roll diremo: ah, gli sbarbi li abbiamo messi in piedi noi. Oh, congediamo anche gli amici della seconda mezz'ora. Ciao, se abbandonate la frequenza radiofonica, ci risentiamo domani. E ricordo anche voi che se vi perdete pezzi di trasmissione potete risentirla su radiorockfm.com. Umama, che emozione, c'è la radio promozione! Eccolo qui, con Panorama continua la collezione delle pietre miliari del rock. Gli album leggendari che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo, gli artisti divenuti vere e proprie icone del rock. Domani in uscita con Panorama, Heroes, il capolavoro irripetibile del genio David Bowie, uno degli album più innovativi della storia della musica, il primo straordinario esempio di contaminazione tra rock ed elettronica, impreziosito da classici senza tempo come Heroes, Beauty and the Beast e Sense of Doubt. Domani in edicola allegato con Panorama, non perdete Heroes, David Bowie. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Pane, burro e rock and roll ha deciso. Uno dei sette vizi capitali è decisamente più rock degli altri. È l'invidia, un'esternazione talmente compromettente da risultare fondamentale. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Confessaci la tua invidia. Garantiamo l'anonimato. È tutta colpa di quei criceti. Allora i bambini li adottano, li coccolano, li portano a casa, li fanno giocare sulle ruotine, e a noi no, continuano a riempirci di schifezze. Probabilmente meritavo di più. Abbasso i criceti, io invidio. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Iscriviti anche tu, invia un SMS al 335-100-7777 col testo "L'invidia è rock". Lamentarsi è deprimente, invidiare è rock. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia.